Ecco, noi Evelyn Bruges di Ahora Film per parlare della distribuzione in sala di Eterno Femminile di Natalia Berenstain che sarà in sala dall'8 marzo. Evelyn, benvenuta. Grazie mille, grazie a tutti. E noi sì, contentissimi di questa uscita. Lo raccontiamo brevemente il film? Molto volentieri. Allora, questo film tratta della storia di Rosario Castellano. Rosario Castellano è stata un idolo, un punto di riferimento per noi donne latinoamericane. Dico noi donne latinoamericane perché io sono colombiana, anche se Rosario Castellano era messicana. È stata pioniera nella lotta al femminismo, no? Poi lei è una poeta letterata, proprio una persona straordinariamente colta e ha fatto veramente tanto, tanto per far sì che i diritti di noi donne in Messico, in Latino America, cambiassero, ecco, fossero un po' più uguali ai uomini, anche se adesso, ancora adesso, ce ne sono veramente tante barriere. Però lei ha messo le basi, diciamo, per tutte queste lotte che tante altre donne hanno proseguito. Senti, è una figura conosciuta in Latino America. Moltissimo, moltissimo. In Messico, in tutte le scuole messicane, le ragazze e i ragazzi studiano proprio Rosario Castellano come letteratura. Nella letteratura si studia lei per le sue poesie e per il suo modo, per la sua vita, come ha vissuto. E lo straordinario di questo film è che è riuscita la regista a catturare i momenti più importanti, si può dire, che hanno marcato di più questa vita così intensa di Rosario Castellano. Quello ci siamo innamorati quando l'abbiamo vista. Senti, che tu sappia come è nato il progetto del film. E il progetto del film è durato veramente tanto. E hanno durato 4 anni a girare tutto, hanno dovuto purtroppo tagliare perché all'inizio iniziava già lei da bambina, da piccola nel paesino dove lei era nata, avevano girato, poi avevano smesso per mancanza di contributi di questo, di quell'altro e poi comunque dovevano veramente tirando il meglio di lei e avere degli studi. E quelle poesie, perché poi nel film ci sono tante scene dove sono le parole sue, vero, delle sue poesie, quindi adattamenti non molto semplici. E la passione di questa regista per questa poetessa l'ha portata sì a far vedere la vita di questa donna straordinaria. Ecco, di questa donna straordinaria, cosa mantiene di attualità la sua figura, la sua opera? La sua opera mantiene quello che mi allaccio al discorso di prima, di quello che lei ha dato a noi, Sì. quello che ha lasciato a noi, con i nostri diritti, no? Di imparare a parlare, perché la donna in Latino America nel XX secolo non parlava, non potevamo parlare, non si poteva dire certe cose, ci voleva sempre la figura maschile. O dal padre, o del fratello, o del marito, e poi se non facevi figli, come lei lo fa vedere lì, non contavi niente. Quindi per questo lei è stata così importante per noi in Latino America. Senti, che tipo di distribuzione, di uscita avete pensato per questo film? Allora, noi abbiamo tutta la distribuzione la facciamo noi, perché noi siamo distributori e indipendenti. E facciamo una distribuzione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano e poi anche completamente doppiato in italiano. Abbiamo le due versioni e sta andando bene di più, molto bene, ce lo richiedono e siamo molto contenti perché usciamo domani in 20 sale in Italia e ne abbiamo tante altre che usciranno a fine del mese perché adesso con gli Oscar. Quindi hanno spostato un po', c'è stato un po' di trasmutto, diciamo così, e iniziamo anche a fine mese con tantissime altre cinema in Italia. Ok, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Per saperne di più, la pagina nostra è Ahora Film, lì trovate tutta l'informazione che volete, poi anche sì, per chi vuole vedere il link del trailer che c'è la possibilità di vederlo, come ho detto prima, in lingua originale con i sottotitoli. Abbiamo fatto un altro anche solo musicale, proprio per permettere a chi guarda questo genere di film di immergersi in questa poesia, perché è una poesia questo film. Quindi abbiamo fatto alla fine tre tipi diversi di trailer, uno in lingua originale, un altro solo musicale e un altro in doppiato in italiano. Basta che tu metti Eterno Femminile e film e trovi tutto quello che puoi vedere, o alla pagina nostra, la Ora Film. Perfetto. Allora, ricordiamo Eterno Femminile di Natalia Berenstain, in uscita in sala a partire dall'8 marzo. Ringraziamo Evelyn Bruges di Ora Film che curerà la distribuzione di questo titolo. Evelyn, a presto. All'Apollo 11. All'Apollo 11, perfetto.